Pane, burro, rock and roll, 7:30 minuti primi. La squadra è pronta per affrontare un'ennesima sfida. L'Ariele, Spadino, Ficcantoni, Isaac Rizzi malato, la redazione non c'è. E voi sì, per fortuna. Saluti a Sere, che dice: sono in squadra con voi. È bello arrivare al lavoro sotto la pioggia, lampione crepuscolare spento e Dells Bells in sottofondo. Saluto Rocco che si iscrive al nostro nuovo concorso Io Invidio. Ci faremo sentire, Rocco, stai lì. Ah no, la sono scemo, eh. Io invidio Rocco, firmato in un altro modo. Saluto Andrea che non ci sopporta. Ci spiace Andrea, ascolta qualcos'altro, metti un CD. Però con gli ACDC già gli stiamo più simpatici. Bene, fa piacere. Roby non ci sta ascoltando, lui sta ascoltando un CD di De André, però ce lo voleva far sapere. Qui abbiamo Michela, Firenze, urgente bisogno di Mister Trombetta, interrogazione di storia, che mi aspetta alle 8. Ecco là, Michela, stai in una botte di ferro. Si prosegue. Mister John Lennon. Ah, questa me la farò tutta. Whatever gets you through the night. Oh yeah. Whatever gets you through the night. It's alright. It's alright. Get your money or your life. It's alright. It's alright. Don't need a song to drop you flowers. Oh no. Oh no. Whatever gets you through your life. Giovedì 31 di gennaio. Sarà pur nato qualcuno il 31 di gennaio. La domanda che è giusto porsi all'interno della mattina di pane, burro e rock and roll. Certo. Carta canta. Carta canta. Noi abbiamo le prove che il 31 gennaio del 1933 è nato Bernardo Provenzano, criminale italiano. Noto criminale mafioso italiano. Ecco così. 1945 Stephen Stills, quello chitarrista. Crosby, Stills, questo sì che è un compleanno rock. Come il prossimo. Nel 1956 Johnny Rotten. Eccolo. Giovannino il Marcio, sì. Cantante inglese delle Pistole del Sesso. Io direi di chiudere qui l'almanacco dedicato ai compleanni del giorno. Colpo di scena. No, no. Non mi cassi, per favore. Ho detto non mi cassi. Sì, capito. Sina Sakura. Ma chi è attrice Sina Sakura? Pornografica, ecco. Giapponese. Lei non può saperlo. 75. È nata nel 75. Lo immagino. Giovanissima. Lo immagino lei a i suoi film nella sua videolibreria. Esatto, ne ho uno scaffale pieno. Ho avuto modo di apprezzare Sina in tutti i suoi punti più oscuri. Auguri Sina. E me, che c'è? Bon Jovi con la sua Runaway. Non chiudeva bene, no, non chiude. Complimenti. Mi ricordavo Runaway e chiudeva così, invece no, vabbè. Un salutone al Fungo, il nostro classico gruppo d'ascolto della Romagna che conta. È entrato da un tatuatore e ha trovato tra i vari disegni un albero. Dice, indovinate a cosa ho pensato? All'abete rock, quello del nostro Babbo Natale. Buona. Poi, assolutamente, Romina, gruppo d'ascolto Mamme Distrutte che Lavorano. Grazie d'esistere, mi avete ridato il sorriso e la voglia di essere di nuovo una cialtrona. Brava Romina, complimenti. Direi che hai estratto il succo di questa trasmissione. Per l'amico che voleva cambiare lavoro e ha richiesto strombazzata, ricordo che l'altra grosso filone tematico di Pane, Burro e Rock'n'Roll è quella di affrontare il precariato a testa alta, arrangiandosi un po' come capita. Se l'assurdo è, se anche Roberto Fricantoni riesce a farsi assumere in una ditta per aggiustare computer, ognuno può fare un po' quel che gli pare piace, no? E allora, signor Antoni, benvenuto nell'azienda Duse Electronic Corporation. Che mansione sa svolgere? Ma non per essere immodesto, signor direttore, ma so fare un po' di tutto. Quindi lei è esperto di computer? Ma sono un tecnico professionista, un vero esperto, è il mio pane quotidiano. E allora è assunto, buon lavoro! La ringrazio, direttore, non se ne pentirà. Buongiorno, sono Roberto Fricantoni della Duse Electronic Corporation. Come posso aiutarla? Ha inserito la spina? Ha provato a riaccendere il computer? Le linee sono momentaneamente occupate. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e sarete ricontattati il più presto. Grazie. Beep. Le linee sono momentaneamente occupate. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e sarete ricontattati al più presto. Grazie e arrivederci. Beep. Mazza che sticata sto programma, raga! Prossimamente, in esclusiva per Rock FM, una radionovela che ha appassionato milioni di radioascoltatori in tutto il mondo. La tranquillità di una piccola cittadina, dispersa nelle lande desolate del Messico, viene messa a dura prova dalla tirannia di un cattivissimo dittatore. Smettetela di ascoltare rock e musica da ignoranti cappelloni! Tagliatevi i capelli! Un solo uomo è in grado di porre fine a questi soprusi e arriva in sella ad una rombante motocicletta. Zorrock! Io odio Zorro! Lo detesto! Con tutte le mie forze! Non perdetevi le emozionanti avventure di Zorrock! Io odio rock! Quasi quasi preferisco spararmi uno standard jazz! Prossimamente in esclusiva su Rock FM. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of a lonely street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll make you so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll make you so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make you so lonely. I'll make you die. Now the bailiff's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And make you so, I'll make you so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely. I'll make you die. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. il re, the king, Mr. Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Oh, although it's always Shaker crowded, mm-hmm. you still can find oh, some yeah. room for broken-hearted mothers to cry. It's so lonely, baby. But die. It's so lonely. It'll be so lonely. They could die. Non solo c'aveva quella faccia da schiaffi, anche la voce, no? So lonely, baby. Vabbè, giovedì 31, vabbè, così, 31 gennaio 2008, l'anno della svolta. Per pane, burro e rock and roll, queste sono state giornate convulse in vista del primo raduno surrealista della nostra trasmissione. Giornate nelle quali spesso e volentieri abbiamo parlato dell'appuntamento di domenica, di Celle Ligure, del nostro carro Patapim e Patapam. Questa convulsione, spesso e volentieri, ci ha fatto dimenticare parti fondamentali di questa trasmissione radiofonica, come per esempio il nostro tredicenne di riferimento a Firenze, il buon Matte, che lui va avanti con la sua band. Ciao Matte! Ciao, come va? Oh, tu, che scusa se non ci siamo fatti sentire, ma stavamo pensando a quella stupidata là. No, sì, non importa, l'avevo sentito. Avevi capito che era per quello? Che avevo capito, poi ieri lo stavo ascoltando, quando ha detto mi richiamava. Ah, esatto, vedi che ti pensiamo sempre comunque. Allora, il Matte ha una band, la prima band, perché ha 13 anni, insomma, non è che uno ha tante band a 13 anni, ne ha una. Avrai fatto quante prove, se no? 4? Sì, 3 o 4 prove si è fatto, poi però qualche volta ci si rivede io e l'altro chitarrista. Io l'ho già capito, Matte, che voi due chitarristi volete fare un po' le prime donne, si è capito da subito, ma va bene. Va bene. L'importante è che se qualcuno vuole fare il capo sei tu, cioè la regola è questa. Cioè il gruppo è democratico, ma non dovesse esserlo, il capo sono io. Vabbè. Questa è un'altra regola fondamentale che ti regalo così, d'amblè, nei nostri corsi per diventare una vera band. Hanno iniziato che manco ci avevano un nome e invece adesso sono i The Anger. L'avete cambiato o siete sempre The Anger? Ma per ora siamo sempre The Anger. Ecco. Spero continui per lungo. Che era già qualcosa. Ricordo, rammento, che c'erano già i primi screzietti col batterista. Sì, ci sono sempre i primi, è difficile trovare subito gente che suona per bene. Poi è successo, lui si è detto se lui, che lui c'aveva troppa attività, no? C'aveva 7 attività e non gli fregava nulla. Allora lui in pratica non è che si buttava fuori noi, andava fuori da solo. È già andato via il batterista! E ora ce l'abbiamo uno e sono quasi 7 anni. No, allora aspetta, cioè tu in quattro prove hai già scassato il batterista, cioè si è scassato lui. Sì. Perché sei già riuscito ad arrivare a fare il discorso, no, però il nostro è un gruppo serio, ti devi impegnare, una roba così. Sì. Immaginavo, non so perché ma immaginavo. E ne hai già trovato un altro che suona da 7 anni. Sì, quasi 7 anni. Che ha la vostra età. Sì, sì, sempre la nostra età. Quindi suona da quando non parlava nemmeno, cioè a 13 anni, 13 meno 7, tu che vai ancora a scuola. Da 2001, quindi 13 meno 7 quanto fa? 8. Da 8 anni suona la batteria. Da quando aveva 8 anni suona la batteria? Sì. Beh, bravissimo allora. Che spero di sì. Perché non l'hai ancora provato? No, ancora lui non si è ancora provato. Quando ce le avete fissate le prove? Questo fine settimana di solito si fissa o il venerdì sera o il fine settimana. Esatto, venerdì o sabato, l'altra volta era sabato, quindi al massimo ci sentiamo settimana prossima. Oh, se questo è bravo, trattalo bene, eh? Certo. Teniamocelo buono. Ma avevi chiesto gli strumenti l'altra volta? Ovvero? La strumentalità. Sì, di chi? Tuo o degli altri? Di tutto. Come siete messi? Allora, batteria la Pearl. Sì, però adesso questo nuovo c'ha la Pearl. Sì, questo nuovo c'ha la Pearl. Quello vecchio cosa c'aveva? C'aveva una batteria elettrica. Come una batteria? No, ma allora hai fatto bene, no? Ok, ci siamo capiti, sì. E poi il chitarrista c'ha una sottomarca, Yaxi 393. Ah sì, una sottomarca di cosa? Cioè simile a? Non so. No, è simile alla Fender. Ah ok, sì. Poi io ho la Echo S350. Che spacchi tutto. Pedali, tutte e due Korg. Ah, beh, quelli spaccano, eh. Quelli sono forti. Pedali sono forti. Sì. Poi che ci basso non lo so. Gli amplificatori, io ho il custom e l'altro chitarrista c'ha il Fender. Beh, siete messi bene, eh? Abbastanza. Bene, bene, molto bene. Matte, senti, devo scappare che il programma continua, ma ci sentiamo settimana prossima. Provate ancora dall'amico o in villa da te? No, no, non sono una villa, sono una casa. Questo perché ti ha sgridato tua mamma, io lo so. Ma fa niente, noi fingiamo, che c'è, fare tanto non lo sanno. Cioè, anch'io no. Abito in villa, cioè. Poi se ho inventato un blues ieri, ma dove si fa sentire a Fabio? T'è già uscito il blues? Blues. Ottimo, Matte, preparalo che lo registriamo e gli facciamo fare l'armonica a Fabione, ok? Tanti fonci TV si manda poi, dai. Ottimo, Matte, a settimana prossima, ciao! Ciao! La nostra band di riferimento si chiamano The Hang e arrivano da Firenze città e spaccheranno tutto. Pardon me while I burst. Oh no. Oh no, no. Oh no, no, no, no. Decade ago I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me. But I guess that it comes with the territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see that I have had all I can take. An exploding seems like a definite possibility. Mindless games, so pardon me while I burn and rise above the flame. Pardon me, pardon me. Don't ever be the same. But 2 days ago, I was having a look in a book and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said, I can relate, 'cause lately I've been thinking of domestication as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, for gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3D. Thinking so much differently. Gente là fuori sta attenta, non è che ci sente così. Matte, se sei ancora all'ascolto, cioè io sono un cialtrone professionista e vada. Sono arrivati una cinquantina di sms che ci fanno notare che 13 meno 7 non fa 8. Che mai nel mondo mio e di Matte fa 8, voi che ve frega, eh? Ti dà fastidio? Infastidisce? Ringrazio il 1007, l'AM, Mary, un paio di anonimi, anzi più di un paio di anonimi. Lo sapevo, mai fare i conti quando sei in diretta. Pardon me, versione acustica, gli Incubus. Permettetemi di dire una cosa, oh mamma che emozione, c'è la radio promozione. Eccola là. Allora, con Panorama prosegue, continua la collezione delle pietre miliari del rock, gli album leggendari che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo, gli artisti divenuti veri e propri iconi del rock, i brani che rimarranno nella storia della musica. Domani, perché oggi è il 31, in edicola con Panorama, Blonde on Blonde di Bob Dylan, il suo capolavoro insuperato da domani con Panorama, Blonde on Blonde di Bob Dylan. Andate e dite che vi manda pane, burro e rock and roll. In edicolo, ovviamente. Farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Viva il caffè! È sicuro che è quello buono? Più lo mandi giù e più ti tira su. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Sono l'inventore del rock demenziale. C'è qualcuno che mi ha copiato e anzi ha migliorato, ottenendo un immeritato successo. Successo che spettava a me e a me soltanto. Probabilmente, anzi, sicuramente meritavo di più. Io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo "L'invidia è rock". Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia.